Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo primo novembre sono le 8:18 primi e un secondo in diretta da Milano. Vi saluto, solo per oggi vi tocca solo Oscar Giannino, perché Alessandro Mina, che naturalmente salutiamo e abbracciamo tutti, si è preso un giorno in questa giornata che riguarda tutti i santi, in cui si festeggiano tutti i santi, e lui fa il santo anche lui oggi, mi sembra anche giusto ogni tanto, però speriamo semplicemente che per coloro che sono in ascolto il vostro modesto servo qui Oscar Giannino da solo riesca a non farlo troppo rimpiangere. Comunque un abbraccio, Alessandro sarà con noi domani come sempre. Con cosa cominciamo? Con i santi, sì, però sono tutti santi, quindi è difficile oggi mancare di rispetto a qualcuno. Solo un particolare: è dall'835 d.C. col Papa Gregorio IV che si festeggia in questa giornata, per così dire, l'intera sequela di coloro che la Chiesa considera la comunità di coloro che ci sono riusciti, cioè che hanno davvero interpretato alla lettera, nel senso più profondo, il senso del cristianesimo, la santità poi alla fine e questa. Comunque, tra gli altri santi che prima dell'835 facevano parte e fanno ancora parte del ricordo giornaliero liturgico, Sant'Aroldo, re di Danimarca, quindi auguri a chi si chiama Aroldo, Benigno, San Marcello di Parigi, tra gli altri poi Maturino e Vigor. Vigor mi piace questo, San Vigor è un vescovo del VI secolo dell'Artois in Francia. Invece, tra gli anniversari del giorno, tanto per restare in atroce tema contemporaneo, nel 1755, oggi, primo novembre, Lisbona veniva spianata dal terremoto, cioè si calcola, ma il calcolo approssimativo, almeno 60.000 vittime, e il famoso terremoto che fa scrivere le pagine che restano celeberrime di Voltaire e che interroga all'epoca tutti i teologi, gli uomini di cultura dell'Europa sulla teodicea, cioè sulla giustizia dell'ipotetico Dio, ma Dio dov'è se permette cose simili? Interrogativo che si ripropone ogni dramma della storia, la Shoah e così via, perché gli uomini credono che poi alla fine, se esiste Dio, si deve occupare di impedire i terremoti o impedire le malvagità umane. E naturalmente c'è poi chi sostiene che Dio ha altro da fare. A proposito di Dio, sui giornali oggi devo dire c'è un seguito alla notizia del Papa a Lunda, 500 anni dalla fissione delle tesi di Wittenberg di Lutero. Papa Bergoglio si è recato in Svezia alla grande cerimonia delle chiese protestanti per ricordare Lutero, però è un seguito che inevitabilmente ha meno spazio sui giornali perché è occupato lo spazio e l'attenzione dalle vicende del terremoto italiano, e io invece una pillola di riflessione ce la dedicherei, perché sono molto colpito che a 500 anni di distanza dalle scomuniche di Papa Leone X, dalle guerre di religione che poi avvamparono in Europa e così via, c'è ancora chi si capiglia dicendo che le parole del Papa sono sbagliate. Per carità, io rispetto le convinzioni in materia di fede di chiunque, ma mi sembra che dopo 5 anni trovare un qualche elemento di ragionevolezza nell'interpretazione della parte, per così dire, che spingeva Lutero quantomeno a criticare le degenerazioni della Chiesa cattolica, ecco, almeno questo mi sembra che non dovrebbe fare più scandalo. Vabbè, però io lo dico, me lo metto lì, senza per questo voler fare prediche a nessuno, a proposito del fatto che appunto nel 1755 oggi veniva spianata dal terremoto Lisbona. A proposito di terremoti, oggi è un altro anniversario che almeno per chi è tifoso di calcio è un avversario di quelli abbastanza così, perché nel 1897 nasceva la Juventus oggi, quindi una giornata che molti festeggeranno. Per altri invece, che vi devo dire, è una specie di destino amaro che incombe sul calcio italiano, lo dico con affetto a tutti gli juventini. Il primo numero di Diabolik oggi nel 1962, E tra chi faceva gli anni, mi piace ricordare due persone che mi erano molto care, sia pure per ragioni diverse. Uno era Aldo Fabrizi, si vede che ormai sono vecchio, grande attore italiano. Uno era Umberto Agnelli, da me sempre considerato, conosciuto personalmente, da me sempre considerato la parte buona dei vecchi fratelli, anche se so che tutti voi rimpiangete l'avvocato Agnelli. Io no, io rimpiango Umberto Agnelli, chiamato sempre a dovere poi riparare agli errori del fratello che tutti quanti consideravano invece geniale. Ma e tra gli altri voglio fare i compleanni, qui qualcuno si arrabbierà e non capirà questa cosa, anche ad Antonella Elia, una delle figure più controverse dell'intrattenimento italiano e molto spesso equivocata. Ma andiamo ai temi del giorno. I temi del giorno, noi oggi affrontiamo due grandi questioni. Ovviamente c'è la questione del terremoto e oggi la prendiamo dal punto di vista che domina il più degli articoli e dei commenti. Gli articoli riportano che cosa? La resistenza delle popolazioni a questa terza ondata sismica dopo la scossa di agosto, la scossa del 26 ottobre, questa del 30 di ottobre. Nell'area intorno a Norcia, un'area antropicamente un pochino più densa di presenza umana rispetto a quella del Rietino ad agosto e dell'ala del versante dei Monti Morti Sibillini, il versante marchigiano, che erano per carità paesi di grandissima storia plurisecolare, ma meno abitati, soprattutto seconde case, moltissime seconde case. Qui invece a Norcia, a Castelluccio di Norcia e così via, si colpisce un territorio più abitato, più denso di imprese e così via. E la reazione, lo sapete, lo avrete capito dai giornali radio, dai telegiornali, dai giornali, e i giornali la descrivono con grande spazio, con grande numero di articoli e di inviati, è quella della popolazione che non accetta l'idea di evitare la tendopoli, che è un'idea giusta in realtà perché non è tempo di tende, però rifiuta di essere, loro dicono, deportati nelle strutture di accoglienza alberghiera verso il mare, verso temperature più sostenibili in questo inverno che da quelle parti è rigido, ma tutto questo prende anche poi le forme di dire: se noi andiamo via di qua, voi deciderete forme di intervento sulle nostre case, sui nostri centri abitati, sulle nostre chiese, alle quali noi siamo contrari, vogliamo tutto com'è, dov'è, da una parte. Dall'altra c'è chi dice: no, queste sono aree a età media di anziani e all'ennesimo colpo di maglio sismico bisogna essere realisti, bisogna andarsene. Più giovani ragionano così, ma sono una minoranza. Allora, la prima grande questione su cui vi invito a telefonare 800 24 00 24, perché ne parleremo con un architetto che si occupa da sempre, per così dire, da decenni di ricostruzione post terremoto, è proprio questa: voi siete davvero convinti che si può ed è giusto ricostruire tutto com'era e dov'era, che è diventato lo slogan di questi due ultimi di queste tre ultime vicende sismiche? Siete davvero convinti di questo? Cioè, ha senso che tessuti urbani del 400, del 300 li tiriamo su con materiali nuovi, con criteri antisismici, ma con l'idea di fare la copia conforme per i turisti? Ecco, io la metto così perché la mia domanda è: facciamo il bis della cattedrale di San Benedetto di cui regge solo la facciata, ritirandola su e facendola con il 3D, con pietre nuove e parte delle pietre vecchie, la facciamo tale quale prima? Ha davvero senso fare così? Oppure bisognerebbe tenere la facciata che resta, la chiesa del 300, la cattedrale di San Benedetto, che sorge ed è uno dei centri della cristianità europea, perché sorge esattamente nell'ipogeo, nel sotterraneo della basilica, ci sono i resti della casa di San Benedetto, che era una famiglia ricca al centro di Norcia, ed è assolutamente attestata storicamente che è così, non è affatto una leggenda. Però bisogna ricostruire tutto com'era e dov'era? Ma o è un fake, come si dice in inglese, non lo so. Ecco, adesso va di moda dire tutto com'era e dov'era. Io ce lo chiediamo, io voglio sapere la vostra opinione, e noi avremo un ospite esattamente su questo. Poi, se volete, chiamateci anche per un altro tema, perché è un tema con cui cominciamo adesso, perché il secondo tema è la RAI, lo metto lì come secondario ovviamente rispetto al terremoto, perché dovete sapere che entra in vigore una legge, una legge sull'editoria, per la quale la RAI sarebbe proprio costretta questa volta ad adottare il tetto dei 240.000 euro come tetto invalicabile per retribuzione non solo dei dirigenti. E sapete invece che i dirigenti dicono la nostra interpretazione che ce ne possiamo fregare, perché siccome abbiamo emesso un bond ce ne possiamo fregare. Perché una delle norme attraverso le quali si poteva eludere il tetto per i dirigenti pubblici era quello che l'ente pubblico emettesse delle obbligazioni sul mercato, cosa che la Rai ha puntualmente fatto per aggirare questo tetto. Ma adesso la questione è che il tetto dovrebbe essere applicato anche alle star, ai conduttori esterni, agli artisti. Su questo la Rai erige barricate e dice: ma ci volete abbattere rispetto ai concorrenti? E quindi dice che non lo applicheranno neanche in questo caso, neanche in questo caso. Io trovo molto singolare questo aspetto della Rai, che pretende di essere pubblica quando vuole il canone rafforzato in bolletta per tutti, e significherà un risorso di canone che da quest'anno diventano più del 70% del totale del suo bilancio, cosa che i suoi concorrenti privati ovviamente sì, sognano. E quindi pretende di essere pubblica per il canone in bolletta e per vederlo espanso. Poi però, quando si tratta di fare intrattenimento, che non è servizio pubblico, perché il servizio pubblico dovrebbe giustificare il canone, quando pretende di fare intrattenimento pretende di essere privata, cioè pretende il meglio del pubblico e il meglio del privato, e il rispetto delle norme del pubblico e del privato ha scelta né in un caso né nell'altro. E poi ci manda le immagini di Sky col direttore invece di Rai News che le commenta come se fosse la propria troupe. Scusate, e io lo dico col massimo rispetto per Di Bella, a cui hanno cucinato questa bella trappoletta dal direttore, però vi rendete conto che nel frattempo noi ci sentiamo dire che i limiti del pubblico non vanno bene perché è privata. Poi a chi dice che è privata, no, noi abbiamo bisogno del canone perché siamo pubblici. Allora, ecco, piccolo paradosso per così dire. Vi segnalo però, prima di iniziare subito con questo argomento con il nostro ospite, vediamo un secondo qualche altro tema che c'è sui giornali di oggi, perché innanzitutto volevo segnalarvi attenzione a cosa succede negli Stati Uniti, perché non facciamo il bis dell'Islanda, che tutti, ovviamente gli Stati Uniti hanno un'importanza molto più rilevante. Nell'Islanda vi è stato detto per una settimana, lo abbiamo già notato ieri, che vincevano il partito dei pirati, l'antisistema, ha vinto invece un partito, il partito conservatore, e la novità è addirittura di un partito liberale liberista europeista, quindi il segno delle elezioni politiche islandesi molto diverso da come vi è stato raccontato. Adesso il problema è cosa succede di fronte al fatto che in alcuni stati decisivi delle elezioni americane, cioè quelli che si chiamano gli swing states, quelli che possono cambiare di colore politico alle elezioni presidenziali, e quindi rispetto a quelli in cui invece la scelta democratico-repubblicana è consolidata nella storia, sono gli swing states, quelli in cui si può decidere le elezioni. Ecco, novità per tutti i media che dicono la campagna è finita, il buffone Trump è finito, Hillary ha stravinto. E invece la gara al ribasso della qualità dei due candidati, che mi sembra il vero segno personalmente di questa elezione americana, si è totalmente riaperta, perché in alcuni di questi swing states, cominciare dalla Florida, ecco, in Florida Trump è di nuovo in testa. E quindi attenzione, perché una sorpresa può di nuovo avvenire. Lo sapete, la storia è quella della riapertura delle indagini da parte dell'FBI per il filone del centinaia di mail sottratte al server del Dipartimento di Stato dall'allora segretario di Stato Hillary Clinton. E questa volta c'è anche un po' di pruderie, perché si parla delle centinaia e centinaia di mail che attraverso l'assistente di Hillary, Uma Obedin, sono passate sui computer del suo ex marito da poco, ex marito per scandali sessuali, e uno era uno dei più promettenti parlamentari, deputati democratici, Anthony Weiner, e hanno dovuto separarsi per via della sua diciamo tendenza a mandare foto del pisello di libertà a ragazze e donne. E anche sul suo server si trovano mail riservate di Hillary. Di fronte a questo, attenzione, perché può cambiare il segno della politica americana alle elezioni, e quindi bisogna stare molto molto attenti da questo punto di vista. E qui c'è un primo filone. Secondo filone, vi segnalo due opinioni contrastate: ma si rinvia il referendum? Perché si è affacciata questa ipotesi per via del terremoto e per via dei ricorsi, tra cui ultimo quello dell'ex presidente della Corte Unida. Mi limito a segnalarvi che il Corriere della Sera su questo dice no, c'è un colonnino in cui dice no, il referendum non si rinvia, e si riportano le opinioni e gli argomenti sotto questo punto di vista del Viminale. La Stampa invece, la Stampa di Torino, ha una pagina intera molto interessante, perché in questo caso c'è una riflessione a più voci e non sono solo le fonti del Viminale, in cui in effetti l'ipotesi che il referendum possa slittare all'anno prossimo E beh, si spiega che può avere un certo credito, per così dire, perché se passa il ricorso Onida, scrive La Stampa, allora a questo punto lo slittamento al referendum al 2017 diventa realtà. Lo trovate sulla Stampa, pagina 13, è un pezzo di Fabio Martini, e oltretutto a quel punto c'è anche la certezza della legge proporzionale come ritocco all'Italicum, quindi attesa per il giudizio del Tribunale di Milano sul quesito. È un giudizio atteso entro pochi giorni. Qual è il sottinteso, cari ascoltatori? È che al governo potrebbe non dispiacere per niente il rinvio, per appunto ragione del fatto che i sondaggi attestano e continuano ad attestare che il no è in vantaggio, e quindi referendum o non referendum, terremoto prevale, per così dire. Mi limito a dire che a me sembra un argomento paradossale, ne vedremo lo sviluppo nei prossimi giorni, ma se dopo che l'Italia si è bloccata da 6 mesi, si è bloccato il calendario parlamentare, tutto ruota intorno al referendum, adesso il terremoto ci impedisce il referendum e continuiamo a rimanere bloccati in attesa del referendum, la mia modestissima opinione è che siamo degli artisti funambolici nell'inventarci come bloccarci da solo, ecco, per così dire. Si affronti questa questione, si voti e, santo Dio, si rispetti il voto degli italiani. Non è che finché i sondaggi sembrano, perché poi i sondaggi, fidati, sembrano far prevalere un voto sgradito al governo, allora rinviamo. Perché cosa facciamo? Votiamo solo il giorno in cui c'è qualcuno in vantaggio con certezza? Ma dove vogliamo arrivare, cari ascoltatori? Lo dico naturalmente sorridendo, ma fino a un certo punto, per così dire, perché va bene sorridere, però si tratta di questioni di certezza del calendario democratico di un paese, no? Ecco, insomma, non vorrei dire. Allora, intanto una telefonata e poi torniamo dopo un minuto. Sentiamo Piero da Bari. Piero, prego. Buongiorno. Buongiorno, complimenti per queste ultime sue osservazioni. Senta, per quanto riguarda il discorso del terremoto e dello slogan ricostruiamo subito tutto, roba, io penso che purtroppo, io mi interesso dall'87 di documentazione dei beni culturali con nuove tecnologie, in più vorrei informarla che esiste un archivio digitale mai consultato, cioè non mai usato per il terremoto dell'Irpinia, però volevo dire, a un certo punto bisognerebbe, secondo me vedo valida l'attenzione degli abitanti nel discorso di restare per avere una ricostruzione, diciamo, consona, però il primo punto secondo me è capire, non possiamo mummificare un territorio, creare, come dire, un modellino giusto alla cinese per poter avere la nostra per i turisti, no? Bisognerebbe capire che cos'è che ha generato questi territori, che forse oggi è cambiata un po' la storia, è cambiata un po' le condizioni al contorno, quindi ricostruire tutto subito, prima le chiese, poi le case, poi le attività commerciali. Però lei dice anche interpretando le necessità, bene, e l'evoluzione giusto, del tempo. Giusto per portare un esempio, sì, un po' per gli addetti ai lavori, cosa, il grande Le Corbusier per studiare il Planobus di Algeri andò a vivere 3 anni lì ad Algeri, poi non fu neanche realizzato questo piano urbanistico. Ora, che cosa voglio dire? Molti di quelli che oggi, dei grandi soloni, dei grandi archistar che stanno parlando, sì, di costruzione roba, non conoscono le realtà locali, non ci hanno vissuto, a parte Norcia, forse il piccolo paesino del quale il nome noi oggi conosciamo solo oggi. Posso dire, Piero, anch'io ho pensato, quando ho visto, e lo capisco, il Presidente del Consiglio che si recò dopo il sisma di agosto, da Renzo Piano, per carità, Renzo Piano è uno dei più grandi nomi di architettura italiana, noto nel mondo per sopra, eccetera. Considerai una cosa un po' da... non mi voglio permettere di giudicare, lo dico da osservatore, da cittadino qualunque, dico, ma è un po' facile, è un po' anche, per così dire, poco rispettoso delle comunità locali che sono ricchissime, gli ordini degli architetti, degli ingegneri, delle aree, sono quelle da cui secondo me bisogna partire, lo dico perché conosco un fiore di iniziative nate e consolidate nei decenni in Italia, proprio intorno agli ordini professionali, soprattutto ovviamente ingegneri, architetti, ma poi tecnici del restauro, storici dello sviluppo urbano, i poli universitari, cioè l'Italia ha un reticolo che ha sviluppato di terremoto in terremoto un sedime consolidato di riflessioni, di modelli di intervento, di studi del territorio, di fronte ai quali, certo, fa più notizia andare da Renzo Piano, ma contemporaneamente è una ipersemplificazione mediatica, maledizione al mestiere che faccio io e che facciamo noi giornalisti, perché la realtà è un po' quella che dice lei, secondo me. E adesso, dopo un minuto, noi torniamo esattamente con un ospite per ripartire da questo. L'ospite è non solo un grande esperto in interventi di restauro, ma si occupò esattamente del restauro del Friuli, anzi di una cattedrale in Friuli che era scesa per terra, anch'essa del 300, e anche lì il problema fu: come interveniamo? La facciamo moderna? La facciamo com'era e dov'era? E ripartiamo da quel dibattito, quindi riannodando i fili di una storia che oramai in Italia purtroppo è una storia del sempre ricorrente, perché noi di terremoti del oltre il sesto ce ne abbiamo uno ogni 7-8 anni nel nostro paese. Tra un minuto. 24 mattino, attenti a noi due. Ed eccoci qui tornati in diretta alle 8.41 e 59 secondi agli studi di Milano. Solo per oggi, Oscar Giannino, con un abbraccio a Alessandro Milan, che non c'è perché si prende un giorno di riposo, come è giusto in questo giorno dedicato a tutti i santi, in cui il Papa è a celebrare un riavvicinamento ai luterani in Svezia, e in cui l'Italia si interroga invece sul sisma, sempre sperando che la scia sismica non ci dia altri colpi di maglio. Ma la questione, avete capito nella prima parte che sono andato un po' lungo perché aspettavamo il manifestarsi di un ospite sulla prima questione che avevo annunciato, quello della RAI, però la RAI è potentissima perché ha fatto sparire l'ospite evidentemente, e quindi niente, si beccano il canone, fanno quello che gli pare, continuano a non rispettare i tetti previsti per i 240.000 euro di retribuzioni per stare dirigenti, e ci levano anche gli ospiti. Sto scherzando, ma intanto l'ospite non c'è stato. Ma invece l'ospite per il tema della ricostruzione, sia per la parte artistico monumentale, sia per la parte dei reticoli urbani di questi centri plurisecolari, medievali, che vengono per l'ennesima volta nella loro storia colpiti dal terremoto, però per la prima volta cade integralmente, tranne la facciata, la cattedrale di Norcia di San Benedetto, che era in piedi dal 300. E detto tutto questo, la domanda diventa: come si interviene? Sì, parlano gli archistar, Renzi è andato da Renzo Piano, Casa Italia intanto ha una cabina di regia che è stata affidata alle mani del rettore del Politecnico di Milano, il professor Azzone, ma nella realtà dei decenni alle nostre spalle, dal Belice in avanti quantomeno, Belice, il Friuli nel 76, l'Irpinia, noi abbiamo consolidato un patrimonio di non solo di dibattiti, ma tecnicamente di linee guida e di intervento che sono state utilizzate in maniera difforme e diversa nei territori colpiti. La questione adesso diventa: a Norcia, nei Monti Sibillini, ad Amatrice Accumuli nel Rietino, che criteri ci diamo? La parola d'ordine è subito diventata no New Town, quindi no lo spostamento delle popolazioni civili in aree urbane diverse da quelle tradizionali, intervento che invece fu adottato massicciamente nel Belice e rifiutato dalla popolazione, a dire la verità, e soprattutto rifare tutto com'era e dov'era. Quindi i centri medievali li facciamo dov'erano e com'erano, naturalmente materiali nuovi, criteri antisismici, ma il più possibile dov'erano e com'erano, e tiriamo tutto su, a cominciare dalle chiese, dai monumenti, tutto com'era e dov'era. La domanda è proprio così ed è proprio giusto? Allora, noi lo abbiamo chiesto, ci siamo un po' grattati la testa ieri, siamo andati a vedere chi si è impegnato con questo stesso interrogativo nel tempo, risolvendolo e con buoni risultati, e dei tanti che ci sono venuti in mente abbiamo chiamato e scomodato, e lo ringraziamo di essere con noi, il professor Francesco Doglioni. Il professor Francesco Doglioni è professore appunto in restauro architettonico all'Università UAV di Venezia, e si pose, lui per primo era giovane, ma insomma era già professionista, questo problema, perché si trovò alle prese nel 1976, ricordate, le due terribili scosse a distanza di mesi in Friuli, con questo stesso problema, anche in quel caso con una grande chiesa della cristianità, il Duomo di Venzone. E anche lì ci fu un dibattito aperto fin dall'inizio, perché c'era chi diceva: ma no, insomma, interveniamo con criteri architettonici, facciamo un'opera consona al nostro tempo. Alla fine andò diversamente. Allora, intanto grazie al professor Francesco Doglioni di essere con noi. Grazie a lei, buongiorno. Ecco, secondo lei sbagliamo noi a dire che bisogna mettere la testa soprattutto su chi nei decenni alle nostre spalle ha realizzato dibattiti e, e ha dato anche linee guida tecniche già su come intervenire piuttosto che pensare alle archistar? Abbiamo torto? No, c'è, assolutamente no, c'è un'esperienza accumulata alla quale è assolutamente opportuno fare riferimento. D'altro canto, io personalmente, pur avendo lavorato a ricostruzioni appunto attente, credo, detesto i luoghi comuni, detesto gli slogan, quindi detesto un po' l'idea di partire con lo slogan com'era e dov'era, pronunciato dopo il crollo dei campanili di San Marco. È sicuramente una parola d'ordine che ha una grande efficacia, che rincuora, però una parola d'ordine non risolve i problemi, perché una cosa dobbiamo essere, come dire, consapevoli: nessun manufatto antico ricostruito può essere come era. Può essere dov'era, ma già lì si può anche un po' discutere. Di sicuro non può tornare ad essere come era stato, per una serie di motivi, ma anche perché c'è un problema, come dire, di sincerità storica. Il terremoto è un evento storico che cambia le cose, le cambia in una certa misura irreversibilmente. Questo significa che la nuova costruzione deve darne memoria e non può semplicemente dire non è successo nulla, perché è falso, è mendace. E quindi è una nuova storia che si riapre, che però deve sapersi sommare all'antica. Questo è il problema. Qual è il modo più adatto per continuare la storia senza tradirla, d'altro canto? E questo ha avuto soluzioni diverse in Italia, come legge, come diceva. E secondo me la varietà dei luoghi, la varietà delle situazioni deve riportare alla luce questo dibattito e le diverse diciamo anime che sono avvenute, alla luce. Senta, quando si studia l'ABC, io sono modesto, appassionato a questa materia, non sono certo né un cattedratico né un esperto vero, però una delle cose banali che si studiano sulla tecnica del restauro è che, diciamo, mentre c'è una specie di manualistica convergente in maniera pressoché totale su come si fa un restauro archeologico, cioè si fa con l'anastilosi, cioè al più è consentito e attraverso una severa cernita il recupero di materiali eccetera, che sono quelli originali per ritirare su un monumento antico caduto per terra di epoca romana, di epoca greca eccetera eccetera, chi fa interventi di tipo diverso viene a quel punto fondamentalmente contestato e coperto di contumelia, voglio dire, fin dai tempi di come sono stati fatti i creativi restauri di Cnosso, per chi ci è andato, che sono troppo creativi e quelli non vanno bene. Ma la cosa diversa è quando succede una cosa come quella che è sotto gli occhi di tutti, alla cattedrale di Norcia, e quindi non è che si può pensare di fare il reperto con i numeri delle cose lapide per ritirarla su. Come si fa? Qual è il criterio di convergenza? Ma intanto bisogna sempre interrogarsi fino a che punto il monumento è davvero distrutto. Lei giustamente prima parlava di anastilosi, cioè questa tecnica archeologica che tira sulle colonne letteralmente, no? Una colonna cade, esatto, non è che viene distrutta, è caduta. Quindi la possibilità di riportarla in piedi è dovuta al fatto che l'elemento è, come dire, smembrato, scomposto. Molte costruzioni in pietra medievali, come si vedono in questi giorni purtroppo in televisione, spesso ribaltate a terra, in realtà non sono del tutto distrutte, perché le pietre sono lì per terra. In realtà a Ventone, in particolare, le pietre sono state recuperate, censite, studiate, ricomposte a terra nella posizione, diciamo, che avevano nella fabbrica, sì, e poi riportate in piedi. Numerate una per una, questa fu la cosa che si fa. In realtà questo era possibile perché il presupposto era gli elementi non erano distrutti, erano scomposti, e questo ha consentito un'azione del genere, ovviamente. Ma dove invece sono polverizzati, come si fa? Il problema è questo, che l'anastilosi non è applicabile, se gli oggetti non sono scomposti, ma sono polverizzati. Quindi questo tema in realtà non è risolvibile strettamente all'interno di un'idea di restauro. E quindi si apre questo ventaglio di situazioni molto articolate, molto differenziate. E poi anche per la struttura dei centri urbani, ha senso davvero replicare quando è tutto spianato? Per esempio a Matrice, e come si vede oggi dai droni, completamente spianata praticamente. Ha senso replicare l'esatta tipologia degli spazi medievali ai nostri tempi? Non mi sento di darle una risposta, Nello stesso Friuli ci sono state risposte diverse. A Venzone sono state recuperate le pietre, ricostruite le case con la configurazione precedente al terremoto, ma come se fossero state restaurate nel frattempo, quindi con migliorie sia strutturali che organizzative. Diciamo, a Gemona la strada è stata un po' diversa, diciamo, i sedimi sono ancora quelli, però le case sono diverse, però hanno, come dire, delle evocazioni delle situazioni precedenti, quindi ci sono diversi livelli. Però devo confessare che questo tema a me interessa, come dire, non tantissimo, mi interessa di più quello della prevenzione. Certo. Io devo confessarle che sono, con tutto il dispiacere che provo per quello che sta succedendo, sono molto più preoccupato dal fatto che questo diventi veramente l'innesco di un'attività di prevenzione di lungo termine. Preoccupato nel senso che la auspica? Sì, ma in realtà bisogna prendere la strada giusta, ecco. Che sia economicamente sostenibile, che sia diciamo così efficace, che consenta un efficace uso delle risorse. Oggi per ricostruire o per adeguare un edificio si spende, vorrei dire, circa 10 volte di quanto si spende per migliorarlo, per consentirgli quell'efficacia strutturale che gli permetta di non crollare alla prima scossa, che salvi le persone. Non necessariamente l'intero edificio, che può lesionarsi, però questo versante, diciamo, del miglioramento come intervento parziale ma economicamente compatibile è stato messo in crisi dopo, è stato contestato dopo i crolli di Amatrice, perché si dice la scuola è stata migliorata ed è crollata, il campanile dei Cumuli è crollato e ha ucciso delle persone ed era stato migliorato. In realtà poi si scopre che la scuola non era stata veramente migliorata. Perché avevano utilizzato le risorse per fare i pavimenti e il riscaldamento, appunto, perché la legge regionale lo consentiva. Queste cose qui, secondo me, sono si rischia, come si dice con una brutta espressione, di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Ecco. Purtroppo nei centri storici l'unico sistema che noi possiamo avere per intervenire è il miglioramento. Dico purtroppo, ma nel senso che dobbiamo fare di necessità virtù, perché è l'unica formula adattabile alle diversità dei tessuti, alla articolazione delle proprietà. Lei pensi che per fare un adeguamento bisogna svuotare un isolato sostanzialmente. Esatto. E intervenire unitariamente magari su 50 proprietà diverse. Provi lei a metterle d'accordo. Esattamente. Provi a pensare di applicare il regime di detrazione fiscale ad una casa che ha 3 proprietà diverse. Esatto. E si accorgerà che uno ha capienza e gli altri 2 no. Ecco, allora, questi ultimi 3 minuti dell'intervento di Doglioni sono il fondamento per una riflessione serissima, al di là di come si interviene sui monumenti, che è un problema fondamentale per un paese del nostro patrimonio storico, architettonico, monumentale, però attenzione, Casa Italia è un po' la scommessa, la riforma delle riforme, e il problema è che per come si utilizzano le risorse in Italia e per la complessità dei processi decisionali e organizzativi italiani rischia di essere un falò di risorse senza ottenere i risultati. Questo ha bisogno davvero di una riflessione approfondita. Io intanto ringrazio il professor Francesco Doglioni, ma altri ne sentiremo nei prossimi giorni. E a proposito di come funzionano le case, le cose in Italia, io, se parte un secondo la sigletta di Oscar Go. And the Oscar goes to... Ecco, perché vi volevo fare incazzare puntualmente anche in questo giornale di Tutti i Santi, segnalandovi 2 articoli su come in Italia eternamente le cose non vanno. Allora, se andate sul Fatto Quotidiano, c'è l'articolo di Luciano Cerasa, l'INPS, ispezionate l'Espresso, la patata bollente di Tito Boeri, perché? Perché l'editoriale dell'Espresso ha gonfiato gli organici prima della crisi dello sviluppo per lucrare i denari della cassa integrazione. Fate verifica e c'è un po' di problemi, perché Tito Boeri non è, per così dire, estraneo agli editori. Secondo articolo invece, La Verità, il quotidiano del Belpietro, l'ANAS che assume i dirigenti senza concorso e dice che è pubblico ma è in regola, invece non è affatto in regola, articolo di Fabio Amendolara. Ecco, incazziamoci perché lo Stato ci dice una cosa ma ne fa puntualmente un'altra, e buona giornata di Tutti i Santi, appuntamento a domani mattina come Alessandro Milan, io ci sono anche oggi pomeriggio però alle 4:30.